Quando un uomo e una donna possono dichiararsi sposati? Una simile domanda, anni fa, non si poneva neppure. Allora si accettavano i canoni della società, le regole secolari tramandate di generazione in generazione. Ma poiché una cosa giusta per essere tale deve resistere agli attacchi delle opposizioni, rispondere a questa domanda, per ricevere la conferma che le nostre opinioni in merito al matrimonio siano giuste, è più che mai urgente. E come per la parola di Dio. Per secoli e secoli essa è stata duramente attaccata dagli oppositori, eppure, ancora oggi, nessun ragionamento, obiettivo e serio, ha potuto screditare la sua autorità quale parola di Dio. Cercheremo, con queste riflessioni, di affrontare uno dei temi più contraddetti che la società abbia mai incontrato. Tema, tra l'altro, dal quale dipendono il benessere e la gioia della famiglia e, conseguentemente, della società. Non solo. Domandarsi quando un uomo e una donna si possano definire concretamente sposati, rispondendo correttamente a tale interrogativo significa togliere pesi grossi come macigni a coscienze morali, porgendo un aiuto in ciclopiche situazioni che distruggono la convivenza. Dal punto di vista etnico, il matrimonio può essere considerato un'istituzione universale, comune a tutti i popoli conosciuti di ogni continente e di ogni epoca, per cui è indiscutibile che esso debba essere stato la prima struttura che la società si sia trovata ad affrontare. Questo conferma pienamente ciò che leggiamo nel libro della Genesi, quando l'Eterno Dio creò il primo uomo e la prima donna, Adamo ed Eva. Ad essi disse: «Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una sola carne». Genesi 2:24. In questo primo ordine, rivolto all'umanità come coppia, troviamo il germe di ogni altra riflessione in merito al matrimonio. Innanzitutto, il «perciò», che dà inizio al comandamento, è significativo e quanto mai attuale, per una razza sempre più tesa a corrompere le inclinazioni naturali. Dopo che l'Eterno Dio fece addormentare Adamo e gli tolse un pezzo di carne per formare una donna, cioè Eva, Adamo disse: «Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne». Solo in seguito a tale constatazione leggiamo che l'Eterno Dio disse: «Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne», il che conferisce al matrimonio la posizione di logica conseguenza del rapporto esistente fra due esseri che hanno la stessa natura ma sessi diversi. Questo primo aspetto, quel perciò, condanna tre cose. 1. Ogni unione sessuale fra la razza umana ed altri esseri di specie diversa non aventi le stesse caratteristiche, gli animali, tanto per intenderci. 2. Qualsiasi unione o associazione di intimità che non rispetti la diversità. Inoltre, ogni rapporto nella sfera eterosessuale che sia contro natura, cioè vada contro la divina concezione dell'unione sessuale, Genesi 1:28, i rapporti anali, per dirla come si deve dire. Tale atto non rispetta il principio divino che vede nel rapporto sessuale un dono, recante piacere, sì, ma che non vede nel piacere stesso il suo solo ed unico scopo, avendo come funzione anche la procreazione, in vista della quale sono state specificatamente create le parti fisiologiche della donna. Non tener conto di questo sarebbe come voler attribuire, ad esempio al cibo, l'unica funzione di piacere, dimenticando quella principale di nutrire. Fatta questa doverosa premessa, che sarebbe inutile, ma che causa la depravazione dell'umanità, è diventata indispensabile, consideriamo il matrimonio alla luce dell'ordine divino. Troviamo due soli elementi indispensabili perché un uomo e una donna siano marito e moglie secondo l'ordine di Dio, ai quali per la sua ovvietà se ne deve anche aggiungere un terzo. Il primo elemento è che l'uomo e la donna debbano abbandonare le loro rispettive dimore per abitare sotto lo stesso tetto in armonia, con il reciproco rispetto, come si conviene fra esseri umani esercitanti ruoli diversi, ma con identico valore nelle loro rispettive personalità. 1 Corinzi 7:3. Il secondo è che l'uomo e la donna abbiano rapporti sessuali consensuali, regolari, in rispetto alla naturale e personale esigenza reciproca e in assoluta fedeltà al proprio partner. 1 Corinzi 7:4-5. Il terzo aspetto, scaturito inevitabilmente in conseguenza all'ordine divino di sottomettersi alle autorità vigenti e alle leggi da queste emanate, Romani 13, è che l'uomo e la donna debbano essere riconosciuti dalla società, quali marito e moglie. Questi tre componenti, atti a dichiarare un uomo e una donna marito e moglie, devono sussistere contemporaneamente. Uno solo di questi non è sufficiente. E, come per l'acqua, per essere tale deve essere composta di ossigeno e idrogeno. Un elemento solo non costituisce l'acqua. Così è del matrimonio. Perché un'unione sia realmente tale, si debbono rispettare le regole di Dio. In considerazione del fatto che egli è colui che ha ideato e pianificato l'istituzione matrimoniale, le disposizioni di Dio gettano luce, chiarendole, sulle molte problematiche di un matrimonio. Non è sufficiente fare sesso per essere sposati. Il rituale umano, dettato dalle passioni tipiche della sua natura, ha da sempre contribuito a stravolgere ed alterare i principi divini. Il sesso è forse la passione umana più forte, probabilmente unita a quella per il denaro e quella che porta l'uomo più facilmente e subdolamente a trasgredire. Molti, giovani e non, hanno difficoltà ad essere tanto obiettivi e lucidi da riconoscere come semplice impulso sessuale il sentimento che provano reciprocamente e che definiscono amore. Nel nome di ciò che credono essere amore, convinti che sia per tutta la vita, e avendo preso la decisione anche davanti a Dio di unirsi quando possibile in matrimonio, essi sono tentati a praticare la sessualità in nome di un semplice sentimento che li attrae, facendoli sentire uniti. Esercitano il sesso in modo completo e non come fossero già sposati, sentendosi in regola grazie ai loro presupposti, ignorando gli altri due punti che confermano la liceità di un matrimonio secondo Dio. Purtroppo, i nostri sentimenti non sono sufficienti per avvallare la sessualità al di fuori del matrimonio. Oltre a praticare il sesso, non è neppure sufficiente la convivenza per essere marito e moglie. All'inizio del XXI secolo è d'abitudine per i giovani, ma non solo per loro, coabitare sotto lo stesso tetto, senza ricorrere ad un atto legale e formale che dia riconoscimento come marito e moglie di fronte alla società. Non è certamente una cosa nuova, ma questa pratica, in questi ultimi anni, è diventata tanto comune che ormai l'opinione morale della società ne è stata contaminata. Nessuno più grida allo scandalo se due abitano sotto allo stesso tetto senza essere legalmente sposati. Anzi, attualmente perfino l'ordinamento giuridico, pur non riconoscendoli marito e moglie, riconosce diritti e doveri alle coppie cosiddette di fatto. Alla luce dei comandamenti di Dio, però, non possiamo ritenere sposati un uomo e una donna solo perché coabitano. La loro convivenza, se non è legalizzata, è illecita. Sempre tenendo conto del piano divino, neppure il solo riconoscimento pubblico, la sola legalizzazione di un'unione, è sufficiente a dichiarare marito e moglie due persone. Si sa che la morale della società muta. Ciò che era illecito una volta, oggi, è dichiarato lecito e viceversa. All'inizio del XXI secolo si è rivalutato, fino a stravolgerlo, il concetto di matrimonio. Oggi, a causa di questo, anche due persone dello stesso sesso vengono riconosciute marito e moglie. Queste umane valutazioni non reggono però davanti all'ordine divino. Manca un elemento per poter definire matrimonio l'unione di due persone, il sesso espresso nella sua forma naturale. Manca il perciò dell'Eden o i presupposti divini, due sessi diversi e complementari, atti alla procreazione. Il matrimonio, lo ribadiamo, è stato costituito da Dio non solo per riceverne un piacere, dall'atto sessuale e dalla convivenza, ma come mezzo per la perpetuazione della specie. Per cui va da sé che l'indispensabilità della diversità di sesso non sia tanto e solo un fattore etico, quanto una necessità per la sopravvivenza della razza. L'Eterno Dio ha ordinato alla prima coppia di essere fruttiferi, di moltiplicarsi e di riempire la terra. Come potrebbero due esseri dello stesso sesso obbedire a tale comando? Il matrimonio fra omosessuali cozza contro ogni logica umana, contro il bene della società, oltre che contro l'inclinazione stessa della sua natura. Dunque, per rispondere alla domanda iniziale, possiamo dichiarare marito e moglie due esseri, aventi caratteristiche sessuali diverse solo quando adempiono contemporaneamente a due principi. Più uno, devono coabitare come si conviene, in rispetto reciproco sotto lo stesso tetto, esercitare la sessualità acconsentendovi vicendevolmente in pieno rispetto delle diverse e reciproche necessità e peculiarità naturali, celebrare il loro matrimonio secondo il rituale ufficiale in uso nella comunità alla quale appartengono. Poiché, secondo la parola di Dio, queste tre sono le caratteristiche atte a dichiarare marito e moglie due persone, è inevitabile, indiscutibile, a mio parere, concludere che l'unione non sia più matrimonio venendo a mancare anche solo uno di queste componenti. Similmente all'esempio dell'acqua, che per essere tale necessita di idrogeno e di ossigeno, e venendo a mancare una componente, l'acqua non si potrebbe più definire tale. Così è del matrimonio. Se viene a mancare la coabitazione come atto di volontà, l'esercizio della sessualità consensuale o il riconoscimento della società, il matrimonio è nullo. Mi sembrano conclusioni inevitabili dettate dal buon senso, che non hanno bisogno di grandi supporti. Se una cosa per essere completa ha bisogno di tre elementi, la mancanza di uno di questi non la rende più completa. Se un essere umano, per essere tale, è composto di anima, corpo e spirito, la mancanza di uno di questi elementi non permette più che un essere umano si possa definire tale. È vero che i morti sono davanti a Dio senza corpo, ma non sono completi, non sono più umani. Così è del dichiarare marito e moglie due persone. Se, per riconoscere marito e moglie, due persone di sesso diverso, che desiderano fondare una famiglia e perpetuare la specie, ho bisogno di tre elementi. La mancanza di uno di questi rende lecito che io riconosca l'annullamento del vincolo matrimoniale. Il metro che uso per riconoscerne la liceità deve essere pure lo stesso per riconoscerne l'illiceità. Usare due metri e due misure è odiato da tutti, soprattutto dal Dio che si è rivelato sul Monte Sinai e che ha dato le leggi morali per la società. Proprio perché il matrimonio non è solo una questione civile, ma anche morale, coloro che amano Dio e desiderano compiere la sua volontà affrontano l'argomento con la massima onestà di pensiero. Eppure, nonostante il loro titanico sforzo per essere obiettivi, se vi è un tema contraddetto e discusso, è proprio questo, unito agli argomenti che sono ad esso connessi, quali divorziare e risposarsi. È evidente che i cristiani di ogni epoca usino la parola di Dio come unica autorità sulla loro condotta. Per cui tutto ciò che regola il loro comportamento è tratto dalle scritture. Eppure, come abbiamo detto, nonostante la parola di Dio sia una, nonostante tutti si rifacciano alle stesse affermazioni di Dio, non tutti giungono alle stesse conclusioni. Non è certamente colpa della parola di Dio, perché essa rimane in eterno ed è immutabile in ogni tempo. A rendere difficile la comprensione della parola di Dio, spesso, sono i presupposti e la cultura. Non entro in merito alla malafede, perché farlo non scaturirebbe certamente da una virtù cristiana. Perciò, a mio avviso, è deprecabile giudicare l'opinione altrui, diversa dalla nostra, come atto di mancanza di onestà nei confronti di Dio. Disapprovo, nel più profondo del mio essere, tale comportamento. Se tutti coloro che temono il loro creatore si limitassero ad esprimere le loro convinzioni scaturite in ginocchio, dinanzi alla parola di Dio, proporrebbero unicamente le conclusioni alle quali sono giunti, senza buttare ombra di condanna alcuna verso quelle altrui. Cosa dice in merito al matrimonio la parola di Dio? Dobbiamo riconoscere che, se vi sono avarizie nella guida per affrontare delle problematiche, una di queste riguarda proprio il matrimonio. A causa delle centinaia di sfumature relative alle questioni matrimoniali, noi vorremmo qualcosa di più. Eppure Dio si è degnato di dare solo alcune disposizioni dalle quali noi dobbiamo trarre la morale per ogni situazione. Mi sorge un dubbio. che la parola di Dio non sembri sufficiente per illuminare il nostro cammino nelle situazioni della vita non è forse dovuto al fatto che stiamo affrontando le problematiche, e quelle matrimoniali in particolare, nel modo sbagliato? Possibile che Dio si sia curato di centinaia di particolari della nostra esistenza e abbia trascurato una parte così importante, anzi indispensabile, della nostra vita, quale il matrimonio? Io credo proprio di no. E, alla luce di questo, che mi accingo a fare le seguenti riflessioni. Troviamo una delle due disposizioni di Gesù in merito al matrimonio nel Sermone sul Monte. E, stato pure detto, chiunque ripudia la propria moglie le dia l'atto del divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, la fa essere adultera. E chiunque sposa una donna ripudiata commette adulterio. Matteo 5:31-32. Gesù era ebreo, stava dando dei comandamenti ai suoi connazionali ebrei. Gli ebrei, basandosi sulla legge data da Dio, ritenevano che ripudiare la propria moglie fosse lecito comunque e sempre. Gesù, come fa altrove nel Sermone sul Monte, corregge il tiro: ripudiare la propria moglie se non in caso di una infedeltà ripetuta al letto coniugale, fornicazione, è sbagliato. Indurrebbe inoltre la sposa ripudiata e desiderosa di rifarsi una vita all'adulterio. E chi sposa una donna ripudiata per motivi diversi dalla fornicazione commette adulterio a sua volta. In questo comandamento suona implicito che il matrimonio non sia indissolubile, perché se fosse tale Gesù non avrebbe permesso il ripudio, neppure in caso di fornicazione. Che il matrimonio sia scioglibile, dissolubile, è chiaramente esposto in tutta la legge di Dio. Basti pensare alle leggi sociali date in merito, che evidentemente erano superiori a quello riguardante il patto matrimoniale. Quando un padrone dava ad un suo schiavo una moglie, quest'ultimo, dopo 7 anni, poteva andarsene, ma senza la moglie e gli eventuali figli, nati durante il matrimonio, Esodo 21:1-4. Un uomo che violentasse una ragazza non fidanzata non era in obbligo di sposarla se il padre si fosse rifiutato di dargliela, Esodo 21:16-17. Se un uomo sposava una prigioniera di guerra poteva mandarla via qualora non le fosse più piaciuta, Deuteronomio 21:10-14. Inoltre, che pensare di Dio, che ordinò ad Abramo di mandare via la serva con la quale aveva avuto il figlio, Ismaele, suo primogenito. Non era Abramo, il padre della fede, poligamo, non aveva ripudiato la serva per ordine di Dio. Questi episodi e l'ordine di Gesù urlano ai 4:20 che il matrimonio non è indissolubile. Rimane sicuramente un patto per tutta la vita. Ma, comunque, e sotto la stretta osservanza della parola data in merito dal Signore, dissolubile. Non ammetterlo significa portare all'estremo una verità. Proprio perché i giudei avevano compreso che il matrimonio non fosse indissolubile, non possiamo sempre pensare che gli altri siano ignoranti. Essi, estremizzando a loro volta questa verità, ritenevano lecito ripudiare la moglie per qualsiasi ragione. E Gesù li avverte, per quanto il matrimonio non sia indissolubile, io dichiaro lecita una sola ragione per ripudiare la vostra moglie, o il marito, come è riportato in Marco 10:12. In questo modo Gesù dichiarava il matrimonio un patto senza scadenze, con un'unica eccezione, la pratica di rapporti extraconiugali, stabili o saltuari che siano. Questo aspetto concorda con quello che abbiamo detto all'inizio. Se un uomo e una donna, per essere sposati, devono adempiere a 3 condizioni, venendo meno una di queste, in questo caso il rapporto sessuale, con tutti i presupposti sopracitati, fra cui la fedeltà, allora il matrimonio non c'è più. Essi non sono più concretamente sposati, in quanto la loro unione non onora più l'ordinamento divino. E, in quest'ottica, che devono essere comprese le parole di Gesù. Mi sembra una forzatura, una interpretazione illecita, usare questo versetto, questo comandamento di Gesù, per ogni situazione matrimoniale. Gesù stava parlando di ripudio, non stava dichiarando una dottrina sull'indissolubilità del matrimonio o una regola unica in merito a tutti i problemi inerenti al divorzio. Né pare essere sua intenzione vietare, in modo assoluto e in ogni caso, delle eventuali seconde nozze. Forse nel regno di Dio questo è uno degli errori che hanno introdotto il maggior numero di problematiche, anziché aiutare nella risoluzione di quelle già da sé esistenti. L'altra affermazione di Gesù, che, causa i nostri limiti, crea tante difficoltà, più che placarne, è: quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Come può regolarsi l'uomo per agire con obbedienza davanti ad un Dio che, secondo ciò che leggiamo nella Scrittura, da una parte impone lo scioglimento del vincolo matrimoniale, come per esempio nel caso dello schiavo, mentre, da un'altra parte, dopo averlo concesso, come risulta dalla tradizionale pratica del ripudio che era considerato legale, pare anche vietarlo accanitamente. Poiché l'affermazione di Gesù è tratta da una conclusione di un discorso, leggiamone il contesto. Allora gli si accostarono alcuni farisei per tentarlo, e gli dissero: «È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Ed egli rispondendo disse loro: «Non avete voi letto che chi li creò da principio, li creò maschio e femmina?» E disse: «Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con la propria moglie, e i due diverranno una sola carne. E così non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi». La problematica tra i farisei e Gesù era la stessa. Era lecito ripudiare la moglie in ogni situazione? In questa conversazione Gesù mette in evidenza un altro principio: quello che Dio ha unito, l'uomo non deve separarlo. Su questo principio si sono costruite innumerevoli regole per il matrimonio. La prima domanda che si pone spontaneamente è: che cosa ha unito Dio che l'uomo non deve separare? La risposta più comune è che, con il rito del matrimonio, Dio abbia unito un uomo e una donna. Ma una simile risposta incontra grosse difficoltà, anche perché Gesù disse quello che Dio ha unito, non quelli. Istituendo il matrimonio, l'Eterno Dio disse che l'uomo e la donna si sarebbero uniti sessualmente e, così, sarebbero stati una sola carne. Una sola carne, non più due. Questo è ciò che Dio ha unito. Affermare che sia il rito del matrimonio ad unire, e casomai ad unire indissolubilmente, è una interpretazione a mio avviso alterata e fuorviante. L'Apostolo Paolo, protestando contro l'immoralità dei Corinzi, riconosce il principio secondo il quale il rapporto sessuale fa di due corpi uno solo. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Paolo non afferma che sia il rito giuridico civile, né tantomeno religioso previsto per il riconoscimento sociale di un matrimonio, a fare diventare un uomo ed una donna una sola carne. L'Apostolo non sta neppure dicendo che ogni rapporto sessuale rende marito e moglie un uomo e una donna. Egli si limita unicamente a riconoscere che è il sesso a rendere una stessa carne comunque esso sia praticato, per amore o per sfrenata passione sessuale. Cosa del resto contemplata anche nella legge di Dio: non scoprirai la nudità della moglie di tuo padre. È la nudità di tuo padre. Levitico 18:8. Vedi anche 20:11, 20:21. Come dobbiamo allora intendere l'espressione di Gesù? L'uomo non deve dividere ciò che è stato unito da Dio. Com'è possibile che l'uomo divida ciò che è stato unito mediante l'unione sessuale, in un contesto regolato secondo i principi divini? La risposta a questa domanda spiega anche l'interrogativo circa cosa o chi veramente segni lo scioglimento di un'unione matrimoniale. Dal contesto della discussione fra Gesù ed i farisei è evidente che essi non si riferissero ad un'autorità religiosa o civile, anche perché questa ha solo la funzione di prendere atto di una situazione, sia sposando due persone che decretandone il divorzio. Piuttosto si nota che, commettendo adulterio o fornicazione, l'uomo o la donna abbiano la possibilità di dividere ciò che Dio ha unito, la carne o in altre parole il matrimonio. Solo in questo senso, con una trasgressione all'ordinamento divino, l'uomo può dividere il proprio matrimonio, l'unione di due carni, in un'unica. È vero che la dissoluzione del matrimonio diventa così il risultato di una trasgressione. Ma sta di fatto che il patto sia comunque rotto, diviso e, perciò, inesistente. Unicamente in conseguenza al peccato, quindi, l'uomo e la donna non saranno più da considerare quali marito e moglie. E Gesù avalla lo scioglimento dell'unione stessa tramite il ripudio. La scrittura è ricca di casi che vedono, per ragioni diverse, rotta l'unione matrimoniale, a volte per espresso ordine divino, altre, come nel caso emerso dalla conversazione fra Gesù e i farisei, per chi subisce un torto, cioè nel caso in cui il partner, peccando, viola la sacralità del patto matrimoniale stesso. Questo fatto si scontra con la teoria, comune ed insistente, che vede il matrimonio indissolubile e che reputa, in logica conseguenza alla propria visione, impossibili le seconde nozze. Chi avanza tale teoria, inconsciamente infrange i canoni divini, che possono essere compresi solo interpretando ogni parte della scrittura in cui esiste una citazione riguardo al matrimonio, e solo da un'interpretazione incompleta o superficiale della parola che si può sostenere che Dio ritenga i coniugi sempre e comunque legati al loro primo patto matrimoniale. Se Dio ha ordinato all'uomo di non dividere un matrimonio, risulta implicito che sia potestà dell'uomo farlo. Come comportarsi allora con chi ha rotto un patto matrimoniale, abbandonando il tetto coniugale? Qualunque ne fosse la motivazione, ad eccezione ovviamente di atto coercitivo o avendo tradito il proprio coniuge. Dal punto di vista pastorale, le risoluzioni possono essere varie e di volta in volta andranno valutate. Trattando questa problematica, però, non si può omettere di considerare la parte lesa, il partner abbandonato, altrettanto bisognoso di cura. Come dobbiamo considerare il coniuge che si trova inaspettatamente, quanto involontariamente, diviso dal partner? Dobbiamo ancora considerarlo sposato? Secondo ciò che ha detto Gesù, il coniuge che ha tradito ha diviso il matrimonio, per cui il partner leso ha il diritto di ritenere il vincolo matrimoniale rotto ed è, di conseguenza, libero di risposarsi. Poiché il matrimonio è stato dissolto, venendo a mancare uno degli elementi che lo determinano, è difficile poter sostenere una valida ragione per la quale il coniuge innocente commetta adulterio risposandosi. Ciò che Gesù ha affermato essere adulterio riguardava lo scioglimento del matrimonio deciso in base a presupposti dettati dalla volontà umana. In altre parole, Gesù, nella parte iniziale della sua conversazione, condanna il popolo di Israele per aver usufruito della concessione di divorzio a proprio piacimento, per ogni causa. Ma un matrimonio reputato sciolto dall'uomo sulla base dei propri presupposti, per ogni causa, quindi, resta ancora valido agli occhi di Dio. Questo, e solo questo, fa sì che il coniuge ripudiato diventi adultero. Però, una volta che il matrimonio è stato sciolto, per mezzo della violazione di uno dei putà, principi che lo determinano, una nuova relazione diventa lecita. Una simile conclusione non mi sembra opinabile. L'aspetto che ad unire una coppia in matrimonio siano la convivenza e il rapporto sessuale, anziché il solo rito, deve essere ribadito, perché è troppo comune pensare che sia il capo religioso o civile a sposare, ad unire in matrimonio un uomo e una donna. Non è il capo religioso ad unire in matrimonio, neppure lo stesso rito religioso, come neppure la persona giuridica stabilita. Il rito, come le persone atte a svolgerlo, è relegato unicamente e prettamente ad attribuire un riconoscimento giuridico e sociale ad una decisione. Il rito, sia religioso che civile, serve unicamente a prendere atto che due persone manifestano la volontà di unirsi come marito e moglie, che hanno deciso di convivere assieme, mettendo in comune ogni cosa, tra le quali, con la propria funzione determinante, il sesso. Per dirla in modo provocatorio, nel rito matrimoniale Dio non c'entra. Egli infatti si è limitato ad istituire il matrimonio, a stabilire delle autorità, senza però proporre un rito religioso relativo al matrimonio stesso, come invece ad esempio fece per i simboli del pane e del vino. Non vi è un matrimonio cristiano, ma vi è un modo cristiano di celebrare il matrimonio. Nell'Eden e in seguito per secoli non vi era un capo religioso ad unire gli sposi. Eppure un uomo ed una donna che coabitavano erano marito e moglie agli occhi di Dio e della società. Questa realtà storica, incontestabile, avvalla ciò che abbiamo detto. Per avere un matrimonio occorrono due elementi, la coabitazione e la sessualità. Il riconoscimento pubblico è un contratto civile, è una necessità sociale e giuridica, che deve essere rispettata e avvalla pubblicamente gli altri due, ma non è strettamente indispensabile ai fini di stabilire la liceità di un matrimonio. In certi paesi, gli sposi vanno davanti all'ufficiale dello Stato civile. In altri, come si faceva al tempo dei patriarchi e come si fa anche ora in certe tribù dell'Africa, è sufficiente portare la propria donna sotto alla propria tenda. Forme più che leciti e indispensabili per una buona convivenza, che si svolgono variamente, ciascuna in conformità della configurazione storica, ma non indispensabili ai fini di dichiarare un uomo e una donna marito e moglie. Se un uomo e una donna si trovassero soli su di una isola deserta e fossero condizionati da un'approvazione pubblica, la loro unione non sarebbe mai possibile. Proprio perché la società, nella persona che lo rappresenta, prende solo atto di una decisione di due persone di convivere assieme, mi chiedo quale sia il valore spirituale di un matrimonio contratto con rito civile o religioso per la società. Il riconoscimento da parte delle autorità civili che due sono sposati, divorziati, risposati o separati serve alla comunità, alla convivenza sociale, per il rispetto della legislazione vigente, per non commettere un illecito civile, senza necessariamente dover essere ritenuto un responso da parte di Dio. Tenere ben presente questo fattore non porterebbe luce in questo agitato mare di regole matrimoniali? Allora sorge la domanda, poiché la convivenza e l'unione sessuale rendono un uomo e una donna marito e moglie, che bisogno abbiamo delle autorità civili perché tale unione sia dichiarata lecita davanti a Dio? È vero che il cristiano è chiamato, per volontà di Dio, ad essere sottomesso alle autorità civili e per non sconvolgere le istituzioni di una società. Ma fino a che punto le autorità civili e religiose hanno il diritto di dichiarare marito e moglie due persone davanti a Dio? Non prendono queste autorità civili solo atto di una loro decisione? Se riconoscono tale volontà, le autorità che compito svolgono, che diritto hanno nell'ambito della fede? Hanno autorità fino a quando queste rientrano nelle loro competenze. Perciò un matrimonio, dichiarato anche nullo dalle autorità civili ma su presupposti sbagliati, non è invece ancora valido, e un matrimonio sanzionato dall'autorità competente dell'ordine sociale e che da essa continua ad essere considerato esistente, nonostante la propria constata manchevolezza e i presupposti divini che lo dichiarano tale, non è forse nullo? La dichiarazione delle autorità in merito al matrimonio non serve solo per le istituzioni civili? Se serve solo alle istituzioni civili, perché ritenere un matrimonio contratto dalle autorità come un matrimonio contratto da Dio? Che c'entra Dio? Se facciamo una netta distinzione tra le necessità civili, se riteniamo il matrimonio solo un atto civile e non religioso, risolviamo tante problematiche che rovinano la pace dei figli di Dio. Alcuni figli di Dio scandalizzati perché le competenze civili dichiarano marito e moglie degli omosessuali, ma se l'aspetto dell'autorità civile è collocata al suo posto, ciò non dovrebbe turbare più di tanto. Le autorità civili hanno il diritto di stabilire matrimonio, ciò che per loro è matrimonio, perché con gli sposi devono avere un rapporto giuridico. Ma quel matrimonio non sarà ritenuto valido da un figlio di Dio perché il contratto matrimoniale, che sancisce l'unione dell'uomo e della donna, ha il fine della propagazione della specie e dell'educazione del genere umano. Compreso questo, un figlio di Dio rispetta le decisioni delle autorità civili, ma non dipenderà dal loro giudizio per dichiarare un matrimonio avallato da Dio o meno. Molto esplicito è stato C.S. Lewis nel suo libro Mere Christianity. Ci dovrebbero essere due tipi di matrimonio, uno amministrato dallo Stato con norme imposte a tutti i suoi cittadini, e l'altro dalla Chiesa, con norme da essa imposte ai suoi membri. La distinzione dovrebbe essere netta, in modo che sia possibile sapere quali coppie sono sposate in senso cristiano e quali no. Quindi, un figlio di Dio ha bisogno delle autorità per essere in regola con la società e con Dio, ma non dipende da essa per dichiarare lecita la sua unione con una donna. E questo, a mio avviso, vale anche per la Chiesa locale, quale autorità spirituale. È evidente che un figlio di Dio dovrà adeguarsi ai canoni che regolano la comunità locale per non metterla in subbuglio. Ma poiché la Chiesa universale è drammaticamente divisa su questa materia, poiché ogni Chiesa locale ha regole diverse, misure disciplinari bibliche differenti basate su interpretazioni disparate, anche se tratte dall'unica sacra scrittura, va da sé che chi teme Dio alla fine è costretto ad agire come la sua coscienza, modellata e condizionata dalla scrittura, gli suggerisce. I responsabili spirituali dovrebbero dare agli innocenti quella libertà che meritano. Apparentemente le due affermazioni di Gesù non sono sufficienti per risolvere ogni questione in merito al matrimonio. Lo studioso giudeo della legge, Saulo da Tarso, chiamato Paolo, diventato l'apostolo dei gentili, ha dato altre disposizioni per risolvere ulteriori problemi inerenti all'argomento. Poiché i cristiani di Corinto avevano posto delle domande, Paolo, nella sua prima lettera, al capitolo 7, getta altri principi utili al nostro studio. Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Ma, a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme, affinché Satana non vi tenti a causa della vostra mancanza di autocontrollo. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. L'Apostolo inizia dando delle disposizioni che sono niente meno quelle di Dio date nel giardino dell'Eden, perché un uomo e una donna possano essere ritenuti marito e moglie. I coniugi diano al proprio partner ciò che è necessario per una convivenza, perché possano abitare sotto allo stesso tetto. Questo comprende tutto ciò che fa parte delle relazioni umane: rispetto, fiducia, amore, attenzioni, cibo, vestiario, denaro. La mancanza di questo, cioè un marito che obbliga la moglie ad una vita disumana, picchiandola, facendola vivere miseramente, la rende libera di andarsene. Nella legge data dall'Eterno leggiamo il riferimento ad un marito disumano. Se prende un'altra moglie, egli non diminuirà il suo cibo, il suo vestiario e la sua coabitazione. Se non fa per lei queste tre cose, ella se ne andrà per niente, senza pagamento di prezzo. Esodo 21 e 10 in 11. L'Eterno aveva dato alla moglie che subiva queste cose il diritto di rompere il vincolo matrimoniale. Il secondo aspetto che tratta Paolo è il sesso. Tutti e due hanno pieno diritto di esprimere la propria sessualità in un contesto di comune accordo e in rispetto alle diverse ma complementari naturali esigenze. Senza questo atto consensuale, fedele e continuato nel tempo, viene meno uno dei due pilastri che unisce il matrimonio. Le parti in questione non sono più marito e moglie. Paolo continua a dare disposizioni ai celibi, poi, rivolgendosi agli sposati, dice: agli sposati invece ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito e, qualora si separasse, rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e il marito non mandi via la moglie. L'Apostolo prende il principio di Dio che vede nel matrimonio un patto per tutta la vita, per cui l'obiettivo è quello di rimanere sposati. Ma vi erano altre difficoltà che l'Evangelo aveva creato in seno al matrimonio. Come comportarsi se un coniuge si converte? Paolo affronta anche questo problema. Ma gli altri, dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente, e questa acconsente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questi acconsente di abitare con lei, non lo mandi via, perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. Ora invece sono santi. Per ragioni di santità, i corinzi erano tentati di mandare via il coniuge non credente, o di separarsi. Ma Paolo, sempre fedele al principio che il matrimonio sia un patto stabile per tutta la vita, pur non avendo trovato riscontro nella legge di Dio, li invita a non separarsi, perché le benedizioni che riceve il credente ricadono anche sul coniuge non credente e sui figli. E se fosse stato il non credente a separarsi? Paolo contempla anche questa possibilità. Se il non credente si separa, si separi pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati. Ma Dio ci ha chiamati alla pace. Infatti che ne sei tu, moglie, se salverai il marito, ovvero che ne sei tu, marito, se salverai la moglie. Questa conclusione dell'apostolo Paolo ha dato più grattacapi agli studiosi di quanti ne abbia risolti. Cosa significa che la sorella o il fratello non sono più obbligati o vincolati? Elencare tutte le opinioni in merito è quasi impossibile. Ma la riflessione di Paolo fatta in seguito, cioè che esiste la possibilità di portare alla salvezza il coniuge non credente, induce a concludere, come molti seri studiosi hanno fatto, che l'apostolo intendesse riferirsi al vincolo matrimoniale. Se il non credente si separa dal credente, in questo caso il credente, che di fatto viveva una vita matrimoniale già separata, Matteo 10:36, non è più vincolato come partner ed è libero di rifarsi una nuova vita, risposandosi. Questo si accorda con ciò che Dio ha detto nel giardino dell'Eden, poiché un uomo e una donna sono da ritenere marito e moglie quando coabitano ed esercitano la sessualità. Se uno di questi abbandona il tetto coniugale, sia credente oppure no, poiché ai fini pratici il risultato è lo stesso, l'altro non è più tenuto a sentirsi ancora legato come coniuge. Paolo non ha detto nulla di nuovo, ha solo applicato il principio divino che sta alla base del matrimonio. Si è sposati se sussistono le ragioni che rendono valido il matrimonio. Coabitazione e sessualità. Conclusione. Più che conforme alla ragione. Del resto, anche alcuni studiosi, come John Murray, professore di teologia sistematica, nel vedere i soli due motivi che legittimano il divorzio, cita la fornicazione e l'abbandono del domicilio coniugale da parte del non credente. Queste conclusioni non hanno lo scopo di incoraggiare gli sposi a divorziare, né, per chi è separato, a risposarsi frettolosamente. Ho visto abbastanza errori in merito che hanno aggiunto dolori e pene a quelle già esistenti. Il mio obiettivo è duplice. Prima di parlare di divorzio e di risposarsi, occorre comprendere quando un uomo e una donna sono sposati e quando non lo sono. Stabilito questo, forse, molte problematiche in merito al divorzio, a risposarsi, sono inesistenti. Poi, il mio scopo è quello di sollevare da pesi di coscienza, dovuti ad un'errata comprensione ed insegnamento delle scritture, persone che vivendo situazioni matrimoniali dolorose, in cui per svariate ragioni sono venuti a mancare i presupposti per definire tali unioni reali matrimoni, vorrebbero liberarsene. Le mie riflessioni sono tese a responsabilizzare ognuno, a non indurre alcuno a cercare un pretesto per ubbidire alle proprie concupiscenze o innamoramenti improvvisi, extraconiugali, né a promuovere evasioni da sofferenze e frustrazioni. Chi provoca una separazione matrimoniale per raggiungere obiettivi illegittimi è moralmente odioso. Per questo occorre fare ulteriori riflessioni. Quando il matrimonio è in crisi, quando ci si trova in gravi difficoltà nell'ambito matrimoniale, la prima reazione deve essere quella di porsi davanti ad un Dio sovrano, il quale ha condotto e permesso ogni cosa. La sovranità di Dio dovrebbe occupare più spazio nella nostra mente, soprattutto quando le cose non vanno bene. Come Dio ha guidato i nostri passi prima del matrimonio perché ci sposassimo, Egli guida ogni cosa anche durante il matrimonio, anche quando non funziona. Spesso una crisi matrimoniale è indispensabile per rafforzare i rapporti di coppia, come un vento forte rende più stabili le piante. Una crisi mette in evidenza i nostri punti deboli, fa risaltare un aspetto negativo del nostro carattere. Condivido l'opinione di Paul Tournier, secondo la quale non esistono problemi coniugali, ma solo personali. In effetti, poiché siamo tutti complessati e difficili, proiettiamo sul nostro partner i nostri problemi. Accusandolo di mancare dove, in realtà noi siamo i primi a mancare. Le difficoltà matrimoniali offrono ai coniugi la possibilità di evolversi, di riprendere il rapporto su basi nuove, per godere nuove esperienze, di attendere a nuove prospettive, di sperimentare un nuovo amore, quell'amore che inizia quando terminano i sentimenti e crollano tutti i castelli in aria. Quando non è rimasto più nulla in un matrimonio su cui costruire, è il momento di lasciare che sia Dio a costruire. Ciò che a noi sembra impossibile può essere possibile per Dio. Divorziare solo perché non si siano riscontrate tutte le condizioni idilliache che ci eravamo prefissati è una pazzia che alla fine si paga cara. È vero che a volte esistono situazioni veramente difficili, ma quando esistono i tre presupposti che fanno di un uomo e di una donna, marito e moglie anche se imperfettamente, è saggio e un dovere fare tutto il possibile per continuare a mantenere saldo il matrimonio. Molto spesso la situazione matrimoniale inizia a risolversi in positivo con un rinnovato rapporto di comunione con Gesù Cristo mediante la preghiera, la lettura della parola di Dio, la comunione fraterna, la disposizione divina di volere il bene del proprio partner, il perdono dato e ricevuto. Conosco un fratello in fede che aveva seri problemi con sua moglie, che non aveva accettato l'Evangelo come lui, tali, al punto da indurlo a separarsi. Nessuno dei due pensò ad un altro partner. Nessuno dei due divise il matrimonio, continuavano ad avere rapporti sessuali e, alla fine, ritrovarono il modo di riconciliarsi. Un giorno mi confidò che se avesse divorziato, avrebbe commesso il più grande errore della sua vita. La sua pazienza, la sua costanza, l'obiettivo che il matrimonio ha un patto per tutta la vita, lo hanno premiato. È impossibile per degli esseri imperfetti, come noi, avere un matrimonio perfetto, ma è possibile avere un perfetto matrimonio imperfetto. E questo anche con un non credente. Proprio per questo, nella concessione di scioglimento del matrimonio a causa del peccato di fornicazione, è da notare l'atteggiamento costantemente misericordioso e coerente di Dio a se stesso, che non può che richiamare i suoi figli ad avere del continuo un comportamento che rispecchi quello divino. Lo scioglimento dell'unione non è permesso in caso di adulterio, parola che esprime il concetto di caduta occasionale, ma bensì in caso di fornicazione, cioè nel caso di un atteggiamento trasgressivo non accidentale, di un'abitudine radicata. Dio infatti da un lato condanna sempre il peccato in quanto non può assolutamente essere tollerato da lui che è tre volte santo, ma nel contempo si ricorda che siamo polvere e che la nostra natura peccaminosa è quella che è, quindi agisce verso di noi con misericordia, quando la nostra caduta è occasionale, ma agisce con tenacia, quando il nostro cuore è incallito. La parte lesa che subisce un adulterio deve tener presente questo aspetto, perché l'infedeltà casuale non è un segno inequivocabile di un matrimonio concluso. Come ho detto, non incoraggio nessuno al divorzio o a risposarsi, ma vi sono situazioni in cui bisogna divorziare. Come cristiano non auspico il divorzio in nessuna società, perché si tratta sempre di assistere ad una disgregazione di una famiglia, ma di fronte a certe tragedie anche in seno ai figli di Dio, un ordinamento giuridico che tiene conto di una situazione di fatto e che con opportune leggi cerca di salvare il salvabile e di mettere un poco di ordine in situazioni spesso caotiche e paradossali è più che mai opportuno. Non incoraggio nessuno a risposarsi, perché se ha fatto un passo falso rischia di ritrovarsi negli stessi errori. ma è pur vero che in certi casi risposarsi ha dato la possibilità ad alcuni di ritrovare la serenità e la felicità nell'ambito del matrimonio. Non credo che vi sia una regola fissa per tutti, anche se per tutti vi sono delle regole fisse. Una coppia è sposata quando si adempiono contemporaneamente a tutte e tre le disposizioni divine. Non lo è se una delle due indispensabili viene a mancare. Tale mancanza rende la parte lesa, libera di divorziare e risposarsi. Per togliere eventuali pensieri malvagi, non è lecito il divorzio o risposarsi quando la mancanza di convivenza e l'esercizio della sessualità è dovuta ad una causa di forza maggiore, come in caso di guerra o di un temporaneo trasferimento. Le conclusioni delle nostre riflessioni sono quindi le seguenti. 1. Un uomo e una donna sono sposati quando coabitano rispettando le necessità umane, quando esercitano la sessualità in comune accordo, e il terzo fattore indispensabile solo ai fini della vita comunitaria, quando dichiarano davanti al competente ufficiale dello Stato civile di volersi. La mancanza di questi elementi rende nullo il matrimonio. 2. Gesù ha definito il matrimonio un patto che dura tutta la vita, ma non indissolubile, e per questo, in armonia con la legge dell'Antico Testamento, ha considerato la possibilità dello scioglimento del matrimonio. 3. Gesù ha comandato agli sposi di non dividere la loro unione avvenuta non tanto come conseguenza alla celebrazione di un rito religioso o civile, quanto alla convivenza e all'esercizio della sessualità. Il comandamento sottintende che l'uomo può, tramite un atto di disubbidienza, divedere ciò che Dio ha unito. 4. Il coniuge che divide il proprio matrimonio rende libera la parte lesa di divorziare e risposarsi. Il colpevole dovrebbe accettare la disciplina delle leggi civili e religiose alle quali appartiene. 5. Ogni scelta nell'ambito del matrimonio, pur essendo controllata dalla società civile e religiosa, basarsi sulla Bibbia per valutare la liceità di un matrimonio è indispensabile, ma dobbiamo essere abbastanza umili, come riconosce John Murray nel suo libro Il divorzio. Chiniamo quindi il capo di fronte alla realtà che conosciamo in parte, 1 Corinzi 13:9, ed esprimiamo le nostre opinioni tenendo presente i nostri limiti di comprensione. Quando ero più giovane, avevo maturato delle interpretazioni in merito alla parola di Dio che, con il passare degli anni, ho dovuto, pur non rinnegandole, almeno rivedere alla luce della realtà della quotidianità. Lo stesso Agostino, prima di morire, scrisse le ritrattazioni con le quali rivide criticamente certe posizioni del passato. Ora, sbagliarsi su di una cosa marginale reca poco danno, ma imporre regole etiche sbagliate a degli sposi, come fa con convinzione il cattolicesimo per quello che riguarda il rapporto di coppia, significa far portare dei pesi e far commettere errori al prossimo, di cui noi saremo corresponsabili. Con questo non intendo sostenere che tutto sia relativo, né che tutti abbiano pienamente ragione. Desidero soltanto far emergere la necessità di presentare a chi ci confidi la propria situazione matrimoniale disastrosamente disastrata le nostre opinioni e convinzioni scritturali, lasciando però ad ognuno il coraggio delle proprie scelte, senza demonizzarle solo perché in disaccordo con il nostro modo di vederle ed in pieno rispetto all'altrui differenza di personalità e di convinzioni che, sebbene scaturite dalla medesima professione di fede, possono sfociare in una espressione di fede diversa. Dicembre 2003, Ellero.